Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.08, buonasera a tutti da Deborah Rosciani che questa sera vi terrà compagnia per il consueto punto della giornata economico-finanziaria al posto di Sebastiano Barisoni che salutiamo, ritornerà domani con voi, ma Sebastiano mi ha lasciato una puntata davvero calda, ricca di notizie, tutte molto interessanti. Oggi un'altra giornata molto calda sui mercati finanziari. Milano sta perdendo il 2,46%, il calo molto vistoso per Piazza Affari si è registrato da stamattina, dalle prime battute. Le motivazioni sono le più disparate, il resto d'Europa è in calo ma molto più limitato rispetto a Piazza Affari, c'è un meno 0,7% a Parigi, c'è un meno 0,30% a Francoforte, un meno 0,56% a Londra, e anche Wall Street è oggi molto tranquilla, gli indici del mercato americano viaggiano sulla parità, il Dow Jones è a meno 0,02%, meno 0,16% il Nasdaq, meno 0,27% sullo Standard & Poor's, in netta flessione anche l'euro sul dollaro a 1,43. Cosa è successo oggi? Che, come sapete, ieri sera è arrivato il nuovo giudizio di Moody's, che questa volta l'agenzia di rating ha colpito il Portogallo. I titoli del debito portoghese sono stati declassati in un colpo solo di ben 4 gradini e adesso valgono come la spazzatura. Questa situazione oggi ha provocato tutta questa tensione sul mercato azionario. Le vendite stanno colpendo senza distinzione tutti i titoli del settore bancario e naturalmente, come sapete, Milano, essendo composta largamente proprio da banche, subisce più di tutte le altre piazze finanziarie i contraccolpi di questa situazione. C'è ancora Fondiaria che perde l'8,84%, le banche in qualche maniera subiscono anche ovviamente le conseguenze dei provvedimenti della manovra economica del governo. Noi anche di questa peraltro parleremo, perché c'è stata l'attesa conferenza stampa del ministro Tremonti, quella famosa che si sarebbe dovuta tenere ieri, poi rinviata, prima per la questione del lumifragio su Roma, poi si è detto anche per una polemica con i colleghi della Lega e poi per mancanza di carburante dell'aereo che avrebbe dovuto trasportare appunto il ministro, che era a Pisa. Insomma, di fatto ieri questa conferenza stampa non c'è stata, c'è stata oggi pomeriggio e il ministro ha ribadito da dove arriveranno appunto questi 43,4 miliardi che il Tesoro intende recuperare appunto in questo quadriennio, quale sarà la correzione dell'indebitamento che questa manovra potrà portare, e naturalmente ci sono tante polemiche su tanti aspetti delle numerose misure varate, tra cui anche quelle di cui abbiamo parlato largamente stamattina, sia l'ha fatto Oscar Giannino a 9 in punto, poi l'abbiamo fatto a Salva Danaio, tutti quei provvedimenti che colpiscono il risparmio delle famiglie italiane, misure che porteranno nelle casse dello Stato 8 miliardi di euro, quindi è una fetta molto importante appunto della manovra. Quindi parleremo anche di tutto questo, anche delle prime uscite ufficiali di Christine Lagarde quale nuovo direttore del Fondo Monetario Internazionale. Le prime uscite peraltro si riferiscono proprio alla situazione del debito sovrano, alla situazione della Grecia e del Portogallo e quant'altro. Insomma, anche stasera abbiamo diverse cose da raccontare, vi proporremo anche una lunga intervista all'amministratore delegato di Autostrade, sempre in riferimento, ma non solo a questo, ai provvedimenti del governo appunto che colpiscono anche i concessionari. Allora, il numero per poter intervenire, per esprimerci le vostre riflessioni sui temi di oggi è il 349 238 6666, come sempre, come da tradizione, però iniziamo con le notizie in breve della giornata. Il primo flash, come sapete, prima di dare lettura delle notizie un po' più articolate, è sull'andamento delle materie prime. Oro, oggi sui mercati asiatici, l'oro si è portato a 1513,40 dollari l'oncia, anche New York ha aperto in leggero rialzo rispetto alle chiusure di ieri. Il petrolio invece è in calo e a 96,58 dollari al barile. Dal petrolio andiamo all'energia. Oggi c'è stata a Roma la relazione del presidente dell'autorità per l'energia Guido Bortoni, la sua prima relazione al Parlamento dopo che Bortoni appunto ha sostituito il vecchio presidente dell'autorità del gas e dell'energia. Appunto le dichiarazioni di Bortoni sono state di differenti natura. Si è parlato nella sua relazione di infrastrutture. Senza infrastrutture l'Italia, non mi veniva prima il nome del vecchio presidente dell'autorità Alessandro Ortis, adesso mi è finalmente balzato in testa, senza infrastrutture l'Italia sarà condannata a diventare una provincia del gas e non un paese snodo che assume un ruolo cruciale nel nuovo contesto sovranazionale. Questo ha dichiarato Bortoni, ma soprattutto il focus del nuovo presidente dell'Authority del Gas e l'Energia è stato sui prezzi dell'energia elettrica che sono pagati dal nostro paese, soprattutto caricano i conti delle imprese italiane. Nel secondo semestre del 2010 le imprese italiane hanno pagato prezzi all'ordo delle imposte superiori alla media europea per tutte le classi di consumo. Questo è quanto si legge nella relazione annuale dell'autorità, e secondo questa relazione una delle classi di consumo più rappresentativo appunto paga il 26% in più. Per quanto riguarda le famiglie, quelle con bassi consumi pagano il 12% in meno rispetto ai livelli medi europei, mentre per i consumi più elevati l'Italia presenta prezzi lordi maggiori del 12,3%, sebbene il divario si sia attenuato rispetto al passato. Per ciò che invece attiene al gas, le famiglie italiane nel 2010 avrebbero pagato un prezzo in linea con la media europea, sempre al netto delle imposte e maggiore al lordo. Andiamo all'economia internazionale. Oggi a metà mattinata è arrivata una nuova stretta sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Cinese. Questo peraltro alla vigilia della riunione della Banca Centrale Europea prevista per domani. E anche Trichet dovrebbe portarci questo nuovo aumento dei tassi di interesse dell'Eurozona che, contrariamente alle attese di qualche mese fa, probabilmente sarà l'ultimo intervento dell'anno. Difficilmente ce ne dovrebbe essere un terzo alla fine dell'anno, anche perché l'economia dell'Eurozona, come sapete, viaggia a marce molto ridotte, quindi ha ancora bisogno di questo stimolo monetario. Ma rimanendo alla Cina, la Banca Centrale Cinese appunto ha annunciato oggi questo nuovo aumento del tasso di interesse dello 0,25%. Si tratta del terzo aumento nel 2011. In una nota pubblicata sul suo sito web, la People's Bank of China ha comunicato che i tassi di riferimento sui depositi e sui prestiti verranno aumentati rispettivamente al 3,5% e al 6,56%. Ci sono sempre tutte queste frazioni particolari negli interventi appunto della Banca Centrale Cinese. Comunque gli aumenti entreranno in vigore da domani. La ripresa economica globale è irregolare, ci sono squilibri con la crisi del debito nelle economie avanzate e rischi di inflazione nei paesi emergenti. Lo ha detto il nuovo direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, sottolineando che le cose sono però migliorate rispetto a 2 anni fa. E ha aggiunto: la crisi del debito non è confinata all'Europa, è più ampia, è un problema pressante con i forti flussi di capitale. Appunto questo è quanto ancora ha detto la Lagarde, individuando quelli che ritiene essere i 2 temi più pressanti e immediati al cospetto della comunità finanziaria internazionale. Allora, dicevamo di questa brutta giornata sui mercati finanziari, brutta per la verità per Piazza Affari, che perde 2,5 punti adesso sul FTSE MIB. Le altre piazze sono negative, ma distanziano nettamente Milano. Allora, la colpa oggi è attribuita largamente a ancora una volta alle agenzie di rating, e questa volta si assume la responsabilità della situazione Moody's, che ieri sera intorno alle 8 ha fatto sapere di aver tagliato il rating sovrano del Portogallo a junk, cioè spazzatura, portandolo al livello BA2 da BAA1 con outlook negativo. Si tratta di un taglio secco netto di ben 4 gradini. E allora, tra l'altro, oltre alle ripercussioni sul mercato azionario, c'è stato un riflesso anche sul mercato valutario, perché l'euro è scivolato sul dollaro fino a 1,4284. Pensate che ieri nella sua punta massima era 1,4550, quindi, come dicono poi tra l'altro gli analisti tecnici, che guardano il movimento intraday del rapporto tra euro-dollaro, in pratica c'è stato uno scalo di 2-3 figure. Questo ci interessa poco, di fatto adesso il rapporto di cambio è 1,43,14, ma molte ripercussioni di questa situazione si sono viste anche sul mercato obbligazionario. Perché? Perché soprattutto i titoli del debito dei cosiddetti paesi satellite hanno di nuovo registrato un allargamento dello spread rispetto al titolo decennale tedesco, rispetto al Bund. Questo ha riguardato oggi anche l'Italia. Il rendimento dei BTP decennali ha superato il 5%, il 5,10% esattamente, con lo spread, cioè il differenziale di rendimento fra BTP e Bund, che si è allargato fino a 216 punti base. Il tasso dei titoli di Stato della Spagna è salito invece al 5,59%, il differenziale di rendimento rispetto al titolo tedesco è arrivato a 263,9 punti, mentre il differenziale di rendimento con i titoli portoghesi, pensate, è finito a 866,3 punti, e quindi i titoli portoghesi devono riconoscere un rendimento valutato oggi all'11,61%. Il tempismo del declassamento di Moody's è del tutto opinabile. Questo è un tema molto interessante che affronteremo nella seconda parte di Focus Economia, e riapre il problema della credibilità delle agenzie di rating. Lo ha detto oggi molto seccato il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari. Il provvedimento di Moody's crea a questo punto ufficialmente un caso sul tavolo delle istituzioni europee, che cominciano a contestare sempre più severamente il modus operandi recente delle cosiddette tre sorelle, delle tre agenzie di rating che hanno di fatto il monopolio di mercato, perché sono solo Moody's e Fitch e Standard & Poor's. Ad emettere questi verdetti, la Commissione europea si è detta rammaricata dell'affermazione di Moody's sul downgrade del Portogallo, e la giudica una decisione spiacevole, non basata su analisi economiche ma solo su ipotesi. E peraltro la Commissione europea ha fatto anche sapere che sta lavorando ormai da mesi sulla riforma delle regole per le agenzie di rating, e entro fine anno presenterà delle proposte legislative per diminuire la dipendenza da queste agenzie, evitare i conflitti di interesse ed immettere nel sistema il concetto di assunzione di responsabilità. Queste dichiarazioni sono del Presidente della Commissione europea Barroso, che ha parlato al Parlamento europeo. Poi vi faremo sentire appunto una parte del suo intervento. Prima di andare a sentire quello che ha dichiarato Tremonti oggi in conferenza stampa, volevo leggervi che il Consiglio dei Ministri tedesco oggi ha dato il via libera, pensate cosa succede in Germania, ad un piano di riduzione della pressione fiscale che dovrebbe partire dal 2013. L'esecutivo guidato dalla cancelliera Angela Merkel ha approvato così questo accordo raggiunto dai partiti della coalizione, che punta ad un taglio delle tasse per i redditi medio-bassi. Questa proposta è stata però fortemente criticata dall'opposizione e anche dallo stesso ministro delle finanze Schauble. Questa è anche una situazione che varrà la pena analizzare prossimamente. Tornando rapidamente alla questione dell'Italia, l'Italia ha bisogno di tagliare la spesa pubblica, altrimenti rischia di diventare come la Grecia, lo ha detto il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, intervenendo al forum annuale del comitato Leonardo. Serve promozione unica. Oggi peraltro c'è stata anche la notizia dell'accorpamento dell'Istituto del Commercio Estero al Ministero degli Esteri. Sentiamo la Marcegaglia. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa tutti, non piace sentirselo dire, ma è così. Il nostro paese ha bisogno di tagliare la spesa pubblica, ha bisogno di riequilibrare i conti pubblici, perché se non lo facciamo noi diventiamo come la Grecia, anche se non siamo certamente la Grecia. Quindi noi dobbiamo tagliare la spesa pubblica, è un must, non piace a nessuno, ma questa è una cosa che dobbiamo fare. Noi abbiamo il dovere, tutti insieme, ragionando, e su questo io sono molto d'accordo con l'ambasciatore Vattani, non dobbiamo fare cose strane o che poi, come dire, nascono da compromessi tra diversi ministeri e con soluzioni che non stanno in piedi, però noi dobbiamo seriamente ragionare su come tagliare gli sprechi e su come avere un sistema di promozione unico, coordinato, che supporti realmente le imprese nell'andare all'estero. Cambio di colonna sonora, di sottofondo musicale, come sapete, ci dà il via libera al primo approfondimento della trasmissione di oggi e tra l'altro vedo anche molte considerazioni di molti ascoltatori che si riferiscono al provvedimento che li riguarda di più rispetto a tutti quelli presi nell'ambito della manovra economica da 43,4 miliardi appunto varata dal governo, e c'è l'aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli. Ieri Sebastiano Barisoni se ne è occupato approfonditamente, lo abbiamo fatto anche noi oggi a Salvadanaio, ci torneremo su questo tema. Di fatto c'è questo aumento secco che varrà da subito perché il provvedimento è preso con decreto legge, si passa da 34,20 euro agli immediati appunto 120 per conti titoli appunto che hanno un determinato valore, per conti che valgono sopra i 50.000 euro si arriverà al 2013 a 380 euro annuali. Insomma, sappiamo che questa è una questione che fa arrabbiare molti piccoli risparmiatori soprattutto. Torneremo su questo argomento spiegandovi anche appunto come funzionerà, come si calcolerà anche per quei conti titoli che per esempio hanno che gravitano intorno per esempio a 50.000 euro perché sono composti largamente da portafogli azionari, come verrà calcolato anche questo importo, se il portafoglio viaggia ad un valore inferiore perché il pacchetto azionario vale di meno. Insomma, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, però ritorniamo alla manovra complessiva: 43,4 miliardi in 4 anni, la correzione dell'indebitamento prevista, sono le cifre rifornite da Tremonti, è di 5,3 milioni quest'anno, 151,8 milioni nel 2012, si salirà a 17,8 miliardi nel 2013, a 25,3 miliardi nel 2014. Da dove arrivano queste risorse? 11 miliardi dei tagli nell'ambito appunto di diversi ministeri in 3 anni, 9,6 miliardi da tagli agli enti locali fra il 2013 e il 2014, quasi 9 miliardi in 4 anni dall'aumento dell'imposta di bollo sui depositi titoli, 7,5 miliardi da tagli alla sanità sempre nel biennio 2013-2014, 2,7 miliardi sulla rivalutazione solo parziale delle pensioni. Peraltro sul provvedimento relativo alle pensioni oggi il ministro Sacconi ha annunciato che probabilmente ci sarà un nuovo intervento correttivo. La crescita non dipende da un atto, non ha un momento istantaneo, ma deriva dall'azione collettiva di tutti, a differenza del bilancio che dipende da un governo e da una legge. Lo ha detto Tremonti oggi nella conferenza stampa sulla manovra al Tesoro. Se si vuol fare una riforma per legge bisogna fare una legge che rispetti la legge. Resta la possibilità, ha detto Tremonti, di fare un intervento alla Masaniello, ma bisogna invece seguire un percorso che rispetti la struttura istituzionale del Paese. Se voi volete fare una riforma per legge, dovete fare una legge che rispetta la legge. Naturalmente resta la possibilità di fare atti alla Masaniello, di fare atti alla tutto cambi perché nulla cambi. Se tu vuoi davvero cambiare, devi seguire un percorso compatibile con la struttura istituzionale di questo Paese. Puoi configurare atti di altro tipo, ma un governo deve fare le leggi e, per essere chiari, se vuoi fare una riforma devi fare una riforma per legge. Credo che in questi articoli ci sia il più radicale e rivoluzionario cambiamento introdotto in questo Paese relativo ai costi degli apparati politici e amministrativi. Il cambiamento consiste nell'adeguamento di tutti i titoli di compenso alla media europea. Il parametro di riferimento sarà costruito da Istat e da Eurostat, ma sarà il parametro europeo. Credo che non ci sia mai stato un paese, e forse era l'Italia che ne aveva più bisogno, non c'è un paese che ha questo criterio di assoluto livellamento alla media europea. L'intervento globale, lo ribadiamo ancora, si attesterà sui 48 miliardi, ha spiegato Tremonti. In alcuni anni ci sarà un effetto di trascinamento anche per gli anni successivi. Proprio sui dettagli delle cifre, ecco ancora l'intervento del Ministro dell'Economia. Noi ci abbiamo, sul anno in corso 2011, un'esigenza di correzione, di manutenzione per 2 miliardi. Siamo assolutamente certi del fatto che l'obiettivo fissato, convenuto per il 2011, sarà 3,9, sarà centrato a legge vigente con questa aggiunta che sta nel decreto legge. Sul 2012 abbiamo una esigenza di correzione pari a 6 miliardi, che si aggiungono naturalmente a tutto quanto è stato fatto negli anni passati. Sul 2013 noi abbiamo per decreto legge una correzione che si cumula e consolida con quelle già fatte per 18 miliardi più 2 che devono venire dalla delega assistenziale. Sul 2014 abbiamo 25 nel decreto legge a regime più 15 che devono venire dalla delega assistenziale. Vorrei che fosse chiaro questo punto. Noi centriamo tutti i numeri fino a 20 e a 40 con due strumenti. Il decreto legge, che è legge e produce i suoi effetti e le proietta fino al 14 e oltre strutturalmente, e la delega. Nel 2013 si va a votare. Noi ci presenteremo con la nostra delega e con i meccanismi di attuazione. Chi non crede nella delega deve avere idee alternative equivalenti, ma se non fa la delega deve coprire le cifre che sono previste per la delega e deve trovare un modo alternativo per la copertura. E questo sarà nella delega e poi blindato per legge nella legge di stabilità. Ci fermiamo adesso per qualche momento di pubblicità, poi ritorniamo sulla conferenza stampa del ministro Tremonti e anche le sue dichiarazioni, oltre che a quelle del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani sul provvedimento sul lodo Mondadori. Poi naturalmente la borsa, vi preannuncio che Piazza Affari sta ancora perdendo il 2,46% sul FTSE MIB. A tra poco. Sono 17.35, seconda parte di Focus Economia. Stavamo ascoltando prima della pausa alcune delle dichiarazioni rese oggi nella conferenza stampa da parte del ministro del Tesoro Giulio Tremonti, illustrando la manovra economica appunto che è stata varata in questi giorni da oltre 40 miliardi di euro per rimettere in sesto i conti pubblici, tanti provvedimenti appunto dei quali stiamo ampiamente parlando da diversi giorni. Molta carne al fuoco nelle vostre considerazioni, soprattutto sulla revisione della tassazione sui conti titoli, tema affrontato anche oggi a Salvadanaio, sul quale torneremo non appena conosceremo un po' tutti i dettagli, soprattutto sull'entrata in vigore, che naturalmente dovrebbe essere contestuale alla pubblicazione è un decreto legge, alla pubblicazione appunto da parte del decreto, quindi alla firma del Presidente della Repubblica Napolitano, la pubblicazione contestuale sulla Gazzetta Ufficiale. Detto questo, si tratta di capire anche se per questioni appunto di fare calcoli precisi la norma per il calcolo appunto dell'applicazione della nuova imposta di bollo entrerà in vigore a partire dal 1 luglio, anche perché non è mai possibile che una norma che inasprisce la tassazione possa essere appunto retrattiva, ma lo sapremo solamente nei prossimi giorni. Detto questo, intanto vi dico anche che da domani il Sole 24 Ore pubblica il secondo appuntamento con il dizionario tematico della manovra economica dedicato ai cambiamenti sul fronte pensionistico. Ci sono tutte le novità e il giudizio degli esperti anche sulle novità previdenziali. Tremonti oggi ha parlato anche della questione dell'inserimento nella manovra del governo della norma che riguarda il lodo Mondadori, che consentirebbe appunto alla Fininvest della famiglia Berlusconi di non pagare i 750 milioni di euro alla società facente capo a Carlo De Benedetti, come stabilito dalla sentenza di primo grado sul lodo Mondadori appunto emessa a Milano. Del lodo Fininvest o lodo Mondadori, chiamiamolo come vogliamo, visto che la norma è stata ritirata, se ne parlerà a Palazzo Chigi, la riunione di ora per discutere del testo che c'è, e c'è molto da discutere. Sentiamo Tremonti su questo. Guardi, le diamo il telefonino del dottor Letta. In ogni caso, francamente, credo che sia questa una riunione per discutere del testo che c'è. Credo che ci sia molto da discutere, da riflettere sul testo che c'è. Ne parlerà ufficialmente Palazzo Chigi. Il cosiddetto lodo Fininvest era una norma di responsabilità, faceva pagare le sanzioni all'azienda all'atto della sentenza della Cassazione, perché pagare prima mette in difficoltà la salute delle aziende, lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Era una norma che io vorrei definire responsabile, in quanto prevedeva che le sanzioni comminate venissero pagate all'atto della sentenza della Cassazione. Voi immaginate cosa può accadere a delle aziende che devono pagare queste sanzioni di rilevantissima attività nel momento in cui vengono condannate in primo e secondo grado? È una norma di civiltà. C'è un danno che è stato creato, si comminano delle sanzioni e a sentenza definitiva si pagano. Il fatto di pagarle prima mette in crisi la salute di quell'azienda e gli occupati di questa azienda. Dopodiché si è scatenato l'inferno rispetto a un'interpretazione molto personale di questa norma. Responsabilmente il Presidente del Consiglio ha detto che era molto più importante la manovra di questa particolare clausola che sembrava poter andare a suo vantaggio, e responsabilmente, vero Giulio, ha chiesto al Ministero del Tesoro, al Ministro del Tesoro, di ritirarla. Fine della storia. E allora, queste alcune delle indicazioni, verranno tante altre, ci sono anche delle dichiarazioni del ministro Brunetta, ma insomma la ciccia della conferenza stampa di oggi l'abbiamo fatta ascoltare. Sicuramente saranno temi sui quali trascineremo le nostre trasmissioni ancora a lungo. Detto questo, oggi il tema del giorno è però quello che è successo sui mercati finanziari, in particolar modo a Piazza Affari, che chiude la sua giornata limando sul finale, ma veramente di poco, con un ribasso del 2,44% sul FTSE MIB. Allora è tempo di raccontare la seduta di borsa. Paolo Paronetto, collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera, ciao Paolo. Buonasera a tutti. Tra l'altro, ovviamente abbiamo attribuito la responsabilità di questa negativa seduta di borsa, che è stata rovinosa soprattutto per Piazza Affari, le altre piazze europee tutto sommato hanno tenuto, ne abbiamo attribuito la responsabilità appunto al giudizio che Moody's ha dato ieri sera ai titoli del debito portoghese, un giudizio che oggi si è fatto sentire anche sul mercato obbligazionario, perché hanno continuato ad allargarsi i differenziali di rendimento fra i titoli decennali di tutti i cosiddetti paesi in difficoltà e il paritetico titolo tedesco, il Bund. Poco fa abbiamo appreso che c'è stato un nuovo record per lo spread tra il bond portoghese a 10 anni e il bund tedesco, appunto, la forbice fra i due titoli si è allargata, pensate, a 1.012 punti base, con l'interesse sul titolo portoghese che è schizzato al 13,04%. Bisogna capire quanto è liquido questo mercato in questo momento, se funziona come per i titoli greci, che praticamente le aste vanno ancora avanti, ma i titoli si ricomprano tutte le banche, appunto, greche con gli aiuti finanziari internazionali. Detto questo, Paolo, è tutta colpa di Moody's quella che è accaduto a Piazza Affari oggi? Beh sì, è sicuramente l'effetto principale. A livello europeo la borsa peggiore è stata, come era anche facile aspettarsi, proprio Lisbona, che ha perso poco più del 3%, e comunque l'andamento è decisamente divergente tra i paesi periferici dell'Eurozona, con Milano appunto a meno un cali superiore al 2% e Madrid superiore all'1%, anche Atene ha fatto una pesante flessione, e gli altri listini che invece hanno limitato i danni, Francoforte quasi piatta, Parigi meno di mezzo punto percentuale. Proprio quello è il motivo, e in particolare la decisione di Moody's ha innescato le vendite, soprattutto, come sempre accade in questi casi, l'abbiamo sempre visto, sui titoli delle banche, in generale i finanziari, che sugli listini milanesi pesano molto, diciamo spesso, e quindi per questo Milano è stata tra le peggiori d'Europa. Ne citò qualcuno: di titolo Unicredit meno 7, UbiBanca meno 6,58, Popolare di Milano meno 6,34, Monte dei Paschi meno 6,22, Incredibile, Banco Popolare meno 5, Intesa San Paolo meno 4,46, Mediobanca meno 3,51, Fondiaria però ancora una volta si guadagna la palma della peggiore società in assoluto, meno 8,91%. Qua non è colpa di Moody's però, Paolo. No, il titolo Fondiaria è in alta linea da quando è partito l'aumento di capitale della società, e la negoziazione dei diritti si chiuderà questa settimana. Rimangono molto alti anche i volumi, e cioè, nonostante il calo odierno, comunque c'è da dire che il valore del titolo è ancora superiore al prezzo implicato dall'andamento dei diritti, proprio i diritti sull'aumento di capitale, che oggi hanno fatto registrare una flessione ancora superiore. Nel dettaglio hanno limato sul finale perdendo l'8%, ma per gran parte della seduta perdevano oltre il 10%. Inoltre Fondiaria, sai come gran parte delle assicurazioni italiane, in questi giorni risente dell'aumento dell'IRAP previsto dalla manovra economica. Allora, invece, andando immediatamente all'altra parte della classifica, Paolo, peraltro mi rimangono veramente una manciata di secondi, l'Ottomatica oggi improvvisamente ha avuto questa fiammata che l'ha portata a guadagnare il 4%, chiude con un più 2,70, distanzia di molto il secondo classificato della giornata, che è Bulgari, più 0,08, fine dei titoli positivi. Sull'Ottomatica cosa è successo? Sì, misura automatica, in questo caso l'effetto della manovra è positivo, le misure varate dal governo prevedono maggiori entrate nel settore giochi, quindi gli operatori prevedono nuove iniziative, nuovi bandi a cui l'automatica potrà partecipare. Inoltre, anche sulla scorta di queste misure, il titolo è stato inserito nella lista dei top pick, cioè le scelte preferite dagli analisti di Mediobanca, che hanno alzato il target price a 19,5 euro, molto superiore ai 13,68 della chiusura odierna, e quindi gli investitori hanno acquistato il titolo. Paolo, grazie, buona serata, e noi andiamo subito ai suggerimenti per chi è in viaggio. E continuiamo a parlare di manovra, in particolare della norma contenuta in finanziaria che riguarda gli investimenti infrastrutturali e quindi anche quelli autostradali. Di cosa si tratta? Il governo ha deciso di tagliare la quota deducibile degli ammortamenti finanziari sulle opere in concessione, comportando di conseguenza un aumento dell'imponibile annuo. Le prime indiscrezioni riferivano di una riduzione di circa il 2%, con un conseguente aumento del periodo di ammortamento da 20 a 50 anni, mentre nel testo della manovra inviato al Quirinale tale tetto è stato ulteriormente ridotto e fissato all'1%, e questo significa un periodo di ammortamento che si allunga, pensate, a 100 anni. Sebastiano Barisoni ha intervistato l'ingegner Giovanni Castellucci, l'amministratore delegato di Atlantia, l'ex Autostrade per l'Italia, chiedendogli innanzitutto come, perché e quale impatto avrà questa norma sugli investimenti. Sul perché penso che di non essere io idoneo e adeguato a spiegare il perché. La manovra complessiva è una manovra impegnativa, il governo è impegnato a recuperare risorse in vari modi, quindi non sono io a dover decidere qual è il modo nel quale recuperare queste risorse. Posso dire che questa manovra, riducendo però, per quanto riguarda la parte specifica delle infrastrutture, la deducibilità fiscale degli ammortamenti e quindi degli investimenti, è di fatto un disincentivo all'investimento stesso, in quanto il tasso di imposizione effettivo cresce proporzionalmente in funzione della quantità di investimenti fatta dall'operatore e inversamente proporzionale alla durata della concessione. Quindi più la concessione è breve, più gli investimenti sono importanti, più il tasso effettivo di imposizione aumenta, quindi si configura come un disincentivo. Questo è il motivo per cui abbiamo segnalato e continueremo a segnalare al governo e al Parlamento la inefficienza di una tale norma. Perché il regime attuale prevede che gli ammortamenti siano legati e proporzionali alla durata della concessione. Per esempio, esatto. Se una concessione ha 10 anni, prevede ammortamenti del 10%. Ora chiarisco anche agli ascoltatori, l'ammortamento è quello che tu, quando fai un investimento, lo dico in maniera un po' brutale, ingegnere, ma insomma, quello che metti ogni anno a bilancio come parte dell'investimento che hai effettuato, no? Sì. Allora, prego. Sono tutti investimenti alla fine gratuitamente devolvibili, quindi alla fine della concessione verranno dati gratis al concedente, quindi allo Stato. Quindi la vita di ammortamento dell'investimento non può essere oltre la durata della concessione. Questo è il motivo per cui si configura come una penalizzazione per gli investimenti. In generale per tutto il settore. Devo dire che le società, le iniziative più toccate sono quelle proprio in partenza, che magari non hanno ancora completato il finanziamento dell'opera. Penso alle iniziative lombarde, ai vari project financing nell'area lombarda, penso alla Tirrenica, iniziative per le quali dovranno essere rifatti evidentemente tutti i piani finanziari e verificati con le banche la effettiva finanziabilità. Sì, appunto, non riguarda voi, ma riguarda Brebemi, riguarda Pedemontana, riguarda tutti gli investimenti che devono anche partire. Cioè, lo spiego agli ascoltatori, praticamente quando tu fai un investimento, se poniamo voi investite 1 miliardo di euro per un'operazione infrastrutturale, lo ammortizzate in 10 anni, poniamo se la concessione è a 10 anni, e quindi uno spalma su 10 anni questo investimento, in questo caso 100 milioni all'anno. Per far capire a tutti, che cosa cambia con la norma contenuta in finanziaria rispetto all'esempio che ho fatto io? Cambia che l'ammortamento fiscale, quindi deducibile a fine della determinazione del reddito, non è più 100 milioni ma sono 10 milioni. 10 milioni, è chiaro. Perché? E quindi aumenta il tasso di imposizione, perché aumentano le imposte, in quanto la parte di ammortamento deducibile è molto più bassa. Esatto. E alla fine della concessione, di fatto, tutto quella che è la perdita fiscale non ancora utilizzata durante il periodo della concessione viene comunque persa, perché l'attività di impresa finisce. Quindi è obiettivamente una norma che ha delle criticità importanti. Se tu deduci meno, se tu deduci meno, di fatto paghi più tasse. Questo è. Paghi molte più tasse, ne paghi molte di più. Quanto più investi e quanto più è corta la concessione. Mi scusi, ingegnere, come intendete voi, diciamo, convincere il governo e spiegare al governo questa cosa? Perché su questo siete usciti con varie agenzie, ma insomma il vostro tentativo sarà quello di convincere a questo punto il Parlamento, perché il governo l'ha già messa nel testo, sarà un'operazione più sul Parlamento? Ma mi permetta di dire che la democrazia italiana funziona, il Parlamento funziona, funziona il governo, funziona la Presidenza della Repubblica, e il problema non riguarda unicamente noi di Autostrade, no, certo, ma riguarda, come dicevo, tutta una serie di operatori ben rappresentati anche ad esempio in Confindustria. Il problema è ad esempio delle imprese di costruzione che vedono dilazionarsi molto nel tempo i già magri programmi di investimento, e questa norma comporterà sicuramente blocchi o rallentamenti. Quindi penso che ci sarà, mi auguro, un'adeguata riflessione su modi più, non dico intelligenti, ma modi di recupero di risorse da parte del governo, recupero doveroso, e noi supportiamo il governo nell'attenta, difficile azione di riconduzione dei conti pubblici a un livello di gestibilità in un mondo particolarmente complesso, senza però andare a penalizzare gli investimenti. Ecco, quest'ultimo aspetto mi interessa moltissimo per concludere, e cioè immaginiamo che, diciamo, resti così il testo della finanziaria. Questo che tipo di penalizzazione potrebbe avere? Cioè, di fatto voi, lo spiego a tutti di nuovo, pagherete più tasse. Alla fine, non potendo dedurre gli ammortamenti come prima, potendone dedurre una parte minore e significativamente minore, pagherete più tasse. Questo che impatto potrebbe avere sugli investimenti? Anche perché lei ricorda che nemmeno un mese fa la Banca d'Italia ha fatto notare come solo il 60% degli ampliamenti concordati nel 97 sono stati realizzati. Questo potrebbe frenare ulteriormente i vostri investimenti sulla rete autostradale? Ma devo dire che sono due temi differenti. Allora, se diciamo ancora ci sono dei piani di investimento non completamente realizzati, è come ben noto e come peraltro rimarcato anche dal governatore della Banca d'Italia Draghi, dovuto a un'inefficienza di sistema iperautorizzativi particolarmente lenti e inaffidabili, quindi non dovuto a volontà. Diciamo che noi continueremo a rispettare i contratti di concessione che sono in essere, indipendentemente da quelle che saranno le norme che verranno adottate. Quindi la nostra responsabilità è quella di portare avanti tutti i progetti che noi abbiamo. Certo che la finanziabilità delle opere e la credibilità sui mercati internazionali, e quindi il recupero di risorse, viene pesantemente impattato da una norma di questo tipo. Ed è per questo che noi riteniamo che ci siano modi migliori e più nell'interesse del paese, quindi dello sviluppo delle infrastrutture e degli investimenti, di recuperare risorse che doverosamente il governo deve recuperare. Ecco, tra l'altro questo ha già avuto un impatto anche sul titolo in borsa, la borsa ha reagito male su Atlantia, devo dire che anche molte banche d'affari hanno rivisto il voto sul titolo, il target price, che a noi interessano molto poco perché non ci affidiamo, però devo dire che sia Credit Suisse che Banca IMI hanno fatto. Ingegnere Castellucci, lei citava appunto anche le lungaggini burocratiche, i vincoli autorizzativi. Non sarebbe il caso di fare un appello anche su questo? Perché spesso in questo programma parliamo di riforme a costo zero e tutto quello che riguarda la parte burocratica, sia per avviare una nuova impresa, sia per ottenere una concessione, sia per far partire i lavori infrastrutturali in Italia, è una corsa a ostacoli con tempi mediamente doppi rispetto alla media europea. Anche questo, pur non toccando direttamente, diciamo, i conti di Atlantia, però forse sarebbe meritevole di un appello al governo e a chi al Parlamento che su questo può intervenire. Beh, diciamo, tutti ci stanno lavorando su questo tema per cercare di sbloccare alcuni lavori, accelerare gli iter autorizzativi, ma mi permetta di dire che se da un lato si lavora e dall'altro poi si fanno norme che disincentivano in maniera forte da un punto di vista economico l'esecuzione dei lavori, si corre il rischio di avere comportamenti assolutamente non efficienti. Io penso che in questo momento la vera priorità sia avere un sistema fiscale che incentivi gli investimenti e non disincentivi gli investimenti, fermo restando la necessità condivisa da tutti di avere risorse in più per lo Stato, perché uno Stato solido è interesse di tutti gli operatori, a partire da noi che lavoriamo in un paese e abbiamo la responsabilità di portare avanti progetti di investimenti importanti per questo paese. Ricordo, sono circa 20 miliardi di euro. Vedremo, vedremo, perché appunto noi abbiamo usato Autostrade per l'Italia, Atlantia come principale operatore, ma ricordo che questa norma riguarderà tutti gli investimenti infrastrutturali previsti nel paese. Vi andrebbe bene almeno il 2% invece che l'1%, come era inizialmente ipotizzato nel testo? No, ma non siamo qui per negoziare. No, ma chiedo, perché magari... No, noi pensiamo che ci siano modi diversi per recuperare risorse per lo Stato che non vadano a disincentivare gli investimenti. Qualsiasi limite alla deducibilità fiscale degli investimenti è un disincentivo. Quindi anche se lo portassero al 2%... Noi riteniamo che lo strumento è sbagliato, quindi... non la misura, è lo strumento sbagliato. Quindi e anche... abbiamo l'obbligo di dirlo. No, questo ci mancherebbe. Quindi anche se portassero, diciamo, alla versione iniziale, per voi sarebbe comunque uno strumento sbagliato, anche se fosse il 2% invece che l'1%, diciamo. Ma mi permette di dire, non siamo noi che lo diciamo, lo dicono tutti gli operatori economici, lo dicono le società di costruzione, e mi permetta di dire, lo dice anche un po' la logica, se la deducibilità degli investimenti non è totale durante il periodo della concessione, il danno per chi investe è evidente. Ci fermiamo, andiamo a sentire le altre notizie nel giornale radio. Focus Economia stasera con Deborah Rosciani, torna subito dopo. Sono quasi le 18.08, ancora buonasera da Deborah Rosciani, che questa sera vi tiene compagnia con Focus Economia per la giornata economico-finanziaria. Prima di andare agli approfondimenti di questa seconda parte della trasmissione, vi ricordo che oggi la borsa europea ha chiuso tutta complessivamente negativamente: meno 0,4% Parigi, meno 0,11% Francoforte, Londra meno 0,35%, Wall Street sta cambiando in positivo: Dow Jones più 0,27%, Nasdaq più 0,17%, in recupero anche l'euro sul dollaro 1,4327, suo malgrado protagonista della seduta europea a Milano, che ha chiuso per la pioggia di vendite che ha investito tutte le banche, con un ribasso molto profondo e pesante, meno 2,44%. Colpa di Moody's, che ha emesso un verdetto molto negativo sui titoli del debito del Portogallo. Sarà il nostro tema di approfondimento fra qualche minuto con un ospite. Riepilogheremo un po' questa giornata anche sul versante del mercato obbligazionario in forte tensione oggi, perché chiaramente ci sono stati dei vistosi allargamenti dei differenziali di rendimento fra i titoli decennali delle principali economie dell'Eurozona rispetto al decennale di riferimento europeo, che è il Bund tedesco. Chiaramente un allargamento che ha riguardato anche i BTP italiani, ma soprattutto i titoli appunto del tesoro portoghese, i cui rendimenti sono schizzati oggi alle stelle. Prima però di questo approfondimento abbiamo altre cose da proporvi, perché è stata una giornata molto ricca anche di eventi economici nel nostro paese. Allora parliamo adesso di pensioni, perché il 42% dei giovani di età compresa fra i 25 e i 34 anni, lavoratori dipendenti di oggi, andrà in pensione intorno al 2050 con meno di 1.000 euro al mese. Questo emerge dai risultati del primo anno di lavoro del progetto Welfare Italia, laboratorio per le nuove politiche sociali di Censis e Unipol, una ricerca che sottolinea come attualmente i dipendenti di questa fascia di età, che guadagnano una cifra inferiore ai 1.000 euro, siano il 31,9%. Il direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, al microfono di Valeria De Rosa. Beh, una prospettiva agghiacciante, perché riguarda peraltro quelli delle giovani generazioni che fanno meglio, quindi il tema importante è accumulare delle risorse e cominciare subito a pensare alla pensione, mentre noi in generale come italiani sappiamo risolvere i problemi immediati, magari se non autosufficiente prendiamo un abbonante, ma non ci mettiamo una logica di medio periodo, è quella più importante, anche perché spendiamo tante risorse per il welfare di tasca nostra. Per rimettersi in circuiti organizzati potrebbero fruttare e dare maggiori tutele anche nel futuro. Io le chiedo, con le poche risorse che ha un giovane che, seppure con un contratto in regola, entra nel mondo del lavoro adesso, come si fa a pensare anche al futuro e alla propria pensione? È naturalmente giustissimo, perché le retribuzioni e il reddito, soprattutto di chi entra nel mercato del lavoro, è molto basso, però sappiamo che c'è un aiuto familiare. L'aiuto familiare magari può essere anche utilizzato per queste forme di integrazione al reddito, e poi io credo sia necessario anche una maggiore responsabilizzazione da parte delle aziende, del mondo che impiega questi giovani, attraverso uno spostamento di risorse, diciamo, del cosiddetto cuneo fiscale anche a favore della previdenza. Come valutate le misure all'interno della manovra che colpiscono anche le pensioni? Ah, guardi, la ricerca ha come sfondo naturalmente il problema dei conti e delle risorse economiche, ma proprio perché su questo naturalmente c'è grande dibattito, abbiamo voluto aprire un faro soprattutto su quelle che sono le condizioni strutturali, tipo sociale e demografico, che mettono a rischio il nostro sistema di welfare. Quando si tratta di tagliare risorse pubbliche, è chiaro che in un welfare come il nostro, che a domanda crescente troverà sempre delle categorie colpite negativamente, e credo che la razionalizzazione delle risorse anche pubbliche possa consentire e evitare tagli che naturalmente avranno pesanti ripercussioni sia dal punto di vista sociale che anche da quello del mercato interno, che sappiamo essere ancora stagnante per molto tempo. Dalle pensioni passiamo invece ad un settore economico molto particolare, ci interessa anche direttamente quello che accade nell'ambito del mercato pubblicitario. Oggi a Milano l'assemblea appunto annuale dell'UPA, l'associazione che raggruppa le aziende che investono in pubblicità. Una crescita 2011 a zero per noi sarebbe un risultato positivo, ha detto il presidente di UPA, Lorenzo Sassoli De Bianche, ai margini dell'assemblea. Al margine appunto dell'assemblea, il mercato è piatto, ha spiegato, a fine aprile era ancora in calo, con una quota di mercato dell'11%, la pubblicità su internet ha sorpassato quella sul più tradizionale dei media, la radio. Questa è una cosa che non ci piace tanto, però insomma questo è quanto è emerso oggi. Sentiamo dunque il commento sull'andamento del mercato da parte del presidente di UPA, intervistato dalla nostra Alessandra Scaglioni. La pubblicità è piatta quest'anno, noi non prevediamo nessun tipo di crescita, e questo purtroppo corrisponde alla situazione economica del paese, in cui i consumi sono fermi, la disoccupazione giovanile è molto alta, la popolazione sta diventando sempre più anziana, ma comunque in generale si riduce il potere d'acquisto. I dati dei primi mesi sono negativi, quindi vuol dire che negli ultimi mesi andrà un pochino meglio? Questa è la speranza, noi non manchiamo di avere fiducia, abbiamo un osservatorio sui nostri associati che ci dice che un po' di recupero ci dovrebbe essere per arrivare alla crescita zero alla fine dell'anno. Tra i mezzi, quali vanno peggio, quali vanno meglio e cosa succederà nei prossimi mesi? Probabilmente questa tendenza non cambierà. No, direi che le tendenze dei singoli mezzi si confermeranno, con la televisione ancora il grande elemento portante per quello che riguarda la pubblicità in termini di dimensione, anche se noi prevediamo un ridimensionamento dell'1,5%, e dal lato opposto il mezzo tra i più piccoli come internet, che sta crescendo oggi a due cifre, vicino al 20%, siamo al 18% di crescita. In mezzo abbiamo naturalmente la radio, che è ancora un mezzo di comunicazione estremamente importante e molto apprezzato dalle aziende, che, per cui prevediamo una piccola flessione, così come la carta stampata e i periodici. Per quanto riguarda il settore, continuerà a soffrire a largo consumo? A largo consumo, non tutto largo consumo soffre. Stanno soffrendo le telecomunicazioni, leggermente, che sono grandi investitori pubblicitari, in termini di investimento pubblicitario parlo naturalmente. L'alimentare tiene abbastanza, la cura della persona è in crescita, mentre invece i beni durevoli, le automobili e i beni durevoli in generale, parlo dei frigoriferi, degli elettrodomestici, questi hanno ancora dei segni negativi e così, che si riflettono sugli investimenti pubblicitari. L'ultima domanda, abbiamo detto riflessioni e proposte, qual è la riflessione e la proposta di oggi? Le proposte ce ne sono parecchie, la prima e più importante è quella che in una situazione di difficoltà, quale quella in cui ci troviamo, dobbiamo tutti investire di più sui contenuti, che vuol dire, per quello che riguarda le aziende, i prodotti, che incontrino sempre di più l'interesse di chi li consuma, e per quello che riguarda i mezzi di comunicazione, sui programmi, in maniera da renderli più interessanti e far sì che gli ascoltatori, gli spettatori si riconoscano nei mezzi a cui essi stessi si sono affezionati. Ci fermiamo ancora a suggerimenti per chi è in viaggio e ritorniamo insieme tra pochissimo. La sfida che ci aspetta è duplice. Da un lato dobbiamo sostenere la piccola impresa, che è simbolo e forza del nostro paese, con una politica industriale che favorirà qualità qualità, innovazione e reti di aggregazione. Dall'altro aiutare le medie aziende a crescere ulteriormente. Lo ha detto l'imprenditrice e presidente di Comitato Leonardo, Luisa Todini, al 10° forum annuale del Comitato dal titolo 150 anni di eccellenza del Made in Italy. Sentiamo a margine dell'incontro la stessa Luisa Todini, presidente di Comitato Leonardo, intervistata da Alessandra Schepisi. 150 anni perché la storia del nostro paese si è formata attraverso la grande politica, il grande dialogo, anche i grandi scontri, ma attraverso le persone che hanno fatto, che hanno costruito le aziende, che sono rimaste piccole e medie, sono diventate eccellenze nelle nicchie, o grandi aziende che come la Fiat poi arrivano a conquistare la Chrysler. Quindi questa è la storia del nostro paese attraverso chi ha fatto impresa e ha investito dando posti di lavoro. I punti di forza quali sono oggi delle imprese italiane? Punti di forza delle nostre imprese è che riagganciano all'impresa soprattutto andando all'estero, quindi sono imprese che hanno avuto la forza di varcare i nostri confini nazionali e di reinventarsi continuando a guardare all'estero, portare la bandiera all'estero. Poi tra l'altro il Comitato Leonardo si rivolge proprio a quelle imprese che hanno una capacità di esportazione. Questo perché ci deve far pensare però che chi è cresciuto, ha continuato a crescere, ha ripreso a crescere in questi anni di crisi, lo ha fatto perché in qualche modo ha ripreso l'esportazione. È il nostro paese che è fermo, è la produzione all'interno del nostro paese che è ferma e sono per esempio i grandi gravami fiscali che non inducono ad investire qui, perché se si paga l'IRAP anche nel momento in cui non ci sono utili, ma perché si ha un'impresa cosiddetta labor intensive, cioè che investe molto in forza lavoro in Italia, questo certamente non induce a lavorare in Italia. Per quelle imprese che non hanno avuto capacità di esportazione, un grande cappio al collo che non permette di investire i profitti. Oggi in Italia è ancora complicato, troppe firme, troppe carte, troppa burocrazia, troppi enti che intervengono molto spesso in maniera totalmente inutile e dannosa. Occorre però puntare più sulla crescita e sull'innovazione. Secondo lei la manovra che adesso è all'esame del Quirinale va in questa direzione oppure no? Se devo guardare il settore che conosco meglio, quello delle costruzioni, mi sembra una manovra depressiva e non che investa. Insomma, dobbiamo imparare a considerare che quando si devono tagliare le spese inutili non si devono tagliare gli investimenti, perché investire vuol dire crescere, cioè quando c'è un problema di deficit e di PIL si agisce sul numeratore e sul denominatore, bisogna investire sulla produzione. Ad oggi non mi sembra che ci sia molto di tutto questo, quindi quello che speriamo adesso nell'analisi che sta facendo il Quirinale, che si rifarà ancora a livello istituzionale, è che ci possa veramente essere un investimento sulla domanda. E lasciamo le notizie economiche della giornata che hanno riguardato alcuni eventi appunto che si sono svolti nel nostro paese. Ritorniamo sui mercati finanziari internazionali per commentare questa seduta di borsa, ma anche questa seduta sui mercati obbligazionari. Una giornata molto movimentata, un movimento determinato, diciamo all'inizio se ne assume l'intera responsabilità Moody's, l'agenzia di rating, che ieri sera ha comunicato di aver deciso il taglio del rating sovrano del Portogallo. Per Moody's i titoli del debito portoghese sono spazzatura, quindi roba da buttare. Il livello è passato a BA2 dal precedente BAA1. Adesso, per chi non conoscesse queste classifiche, che non sono complicatissime, ma in ogni caso il taglio operato è stato di 4 gradini secchi da parte appunto dell'agenzia di rating. Agenzie che sono assolutamente molto attive da qualche settimana a questa parte, continuano ad emettere verdetti sempre più pesanti, soprattutto ovviamente sul titolo del debito dei paesi in più grossa difficoltà. Dopo aver bersagliato la Grecia, adesso si passa appunto alle altre economie in crisi. Allora vorrei commentare tutto questo anche della dura presa di posizione presa oggi dalla Commissione europea, che a questo punto ha detto una riforma del lavoro delle agenzie di rating si rende improcrastinabile, ci stiamo lavorando, sarà pronta a breve. Io vorrei un commento su tutto questo da parte del dottor Gregorio De Felice, responsabile della ricerca economica finanziaria dell'ufficio studi del gruppo Intesa San Paolo. Dottor De Felice, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Peraltro mi piace ricordare anche un suo incarico precedente, poi lo spiego il motivo per cui lo ricordo. Lei è stato anche presidente dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, una categoria che in quanto a reportistica è molto ben preparata, per cui sa bene che cosa vuol dire mettere un giudizio, un verdetto su una società quotata piuttosto che su un paese e l'impatto che si ha sui mercati, quando soprattutto ovviamente questi giudizi sono positivi, negativi, ma anche quando sono positivi naturalmente. Le chiedo intanto, sappiamo bene che condizioni finanziarie stanno viaggiando questi paesi, per la Grecia ormai si fa fatica a dirlo chiaramente, la bancarotta è un dato di fatto, si tratta di stabilire come avverrà questo riscadenziamento del debito, forse col Portogallo ci arriveremo tra breve a tutto questo, naturalmente gli aiuti della comunità internazionale dovranno essere ancora molto intensi, però insomma questo attivismo delle agenzie di rating degli ultimi periodi lo giustifica, dottor De Felice, oppure si tratta solamente di un lavoro che vuole in qualche maniera ricostituire la reputazione che le agenzie di rating avevano drammaticamente perso nella fase più acuta della crisi, quando hanno, come si dice in gergo non tanto finanziario, completamente cannato la vicenda Lehman Brothers? Ma innanzitutto io penso ci sia una grande differenza tra gli analisti finanziari, quelli che seguono le singole società e in questo momento il comportamento delle agenzie di rating. E, per una semplice ragione, analisti che commentano o danno una previsione sul singolo titolo ce ne sono alcune centinaia se guardiamo i titoli più diffusi. Per quanto riguarda le agenzie di rating ne abbiamo sostanzialmente 3-4 se includiamo anche la canadese, 5 con quella della Cina che però non ha in questo momento una credibilità particolarmente elevata. Quindi siamo in una situazione sostanzialmente di quasi monopolio. Noi stiamo vivendo settimane di grandissima tensione sui mercati, c'è una fiducia a rischio e il mercato è basato sul debito e sul credito, quindi la fiducia è un elemento essenziale e questo iperattivismo delle agenzie rischia davvero di esacerbare, di esasperare una situazione che di per sé è già molto nervosa, è già molto complicata. Io sono d'accordo con quanto ha detto oggi Barroso, pensiamo al lavoro che c'è dietro da parte di organismi come la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la stessa Commissione Europea nel valutare i conti di uno Stato sovrano come può essere il Portogallo o l'Italia per l'altro caso. E qui invece abbiamo un singolo analista, una persona che da Londra piuttosto che da qualche altra parte del mondo emette un giudizio e siccome le agenzie sono molto considerate, forse anche per colpa di tutti noi, per colpa della stampa e così via, e poi succedono, abbiamo delle giornate convulse come quella di oggi. Come quella di oggi, peraltro lei faceva un esplicito riferimento poco fa alle dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea Barroso, che intanto ha detto che il tempismo del declassamento di Moody's è del tutto opinabile, si riapre il problema della credibilità delle agenzie di rating e ha detto Barroso appunto in una conferenza stampa a Strasburgo, con tutto il rispetto delle agenzie di rating, noi siamo più rigorosi nelle nostre valutazioni, sentiamolo. Regarding the announcement of one rating agency. Per ciò che riguarda l'annuncio da parte di un'agenzia di rating, lasciatemi ricordare innanzitutto che le agenzie sono un attore del mercato e per questo non sono immuni dai cicli dei mercati e dagli errori che ne derivano. Mi dispiace molto della decisione dell'agenzia di tagliare il rating del Portogallo e mi dispiace sia per la tempistica che per la portata della decisione. Il Portogallo ha appena migliorato il programma di medio termine di aggiustamento dei conti in accordo con Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. E il programma è stato appoggiato da tutti gli Stati membri. In assenza di fatti nuovi sull'economia portoghese che potrebbero giustificare la nuova valutazione, la decisione di ieri di un'agenzia di rating non dà maggiore chiarezza, anzi aggiunge un elemento speculativo alla situazione. Con tutto il rispetto per quella specifica agenzia di rating, le nostre istituzioni conoscono un po' meglio il Portogallo. Le nostre valutazioni sono più rigorose e complete. Our analysis is more refined and complete.